para analisar as relações Brasil-Itália, Domenico Silipoti. Este governo foi colocado lá para resolver alguns assuntos econômicos que a hoje não conseguimos resolver. La Zanzara. Saprogio e me, perché c'è da ridì, non vedo che problema c'è, mettiamola così. Saprogio e me, e che ce passo fa, sono libero di scegliere, ce l'ho sta facoltà. Oppure vogliamo davvero ritornare ai tempi in cui la gente come me prendeva il mare, spediti in esilio su quell'isola lontana, nel nome della virilità italiana. Piccola domanda, caro Parenzo, piccola domanda al premier, nonché candidato di nuovo a Palazzo Chigi, Mario Monti. Sentiamo la domanda del giorno. È informato il premier Monti che il suo candidato al numero 4, se non sbaglio, ma potrebbe essere anche al 5, della lista al Senato in Toscana, in una posizione dunque di eleggibilità, potrebbe essere eletto? Alcuni dicono sarà sicuramente eletto. Il candidato che è stato soprannominato il gay di Monti, candidato omosessuale, termine terrificante, noi siamo ovviamente per il massimo della libertà, per le unioni gay, eccetera, eccetera. Comunque il candidato omosessuale Alessio De Giorgi, direttore responsabile di gay.it. Ripeto, è a conoscenza il professor candidato premier Monti che il signor Alessio De Giorgi, ovviamente è tutto legittimo quello che stiamo dicendo, mica ha violato qualche legge, assolutamente no, però vorremmo sapere questo, è informato che Alessio De Giorgi, attraverso la sua società che si chiama gayit.spa, amministra quattro siti internet, anche qui siamo nel campo della legalità più assoluta, però spostando di fianco i vostri bambini, spostandoli un po' di fianco, giusto? No, in macchina non c'è bisogno perché non si può cliccare, o forse sì. Potete farlo anche in macchina guidando, aprendo il vostro telefonino dotato di internet, esatto, della connessione internet, sì, magari staccando tutte e due le mani dal volante, giusto? Esattamente, e contemporaneamente premendo sull'acceleratore in modo forte, ecco, affondando, diciamo, il piede. Esatto, prendete il vostro telefonino e accelerate, togliete le mani dal volante, oppure se siete a casa spostate un attimo i bambini a fianco, qui non si tratta di audio, non vi dobbiamo mandare degli audio terribili, dobbiamo dirvi di cliccare su quattro siti: gaysex.it, video gay on demand a pagamento, gaysex.it, l'altro sito si chiama gaytube.it, video hard sempre a pagamento, l'altro sito si chiama, un attimo che arrivo, è nowescort.com, è inutile che questo vi dico. Questo c'ero già stato, ancora prima di sapere. Ah, c'eri già stato? C'eri già stato? Sì, ho fatto un'inchiesta giornalistica dettagliatissima. Ah, no, comunque andiamo avanti. Nowescort, è inutile che vi dico il contenuto, nowescort.com, sì. Si precisa che la società che amministra il sito non guadagna nulla dalla intermediazione che potrebbe avvenire, diciamo. È un altro sito che si chiama, collegato a questo nowescort.com, si chiama metoo.ito.com. Questo, insomma, scegliete voi. metoo.ito.com. Sono amministrati dal candidato omosex di Monti, Alessio De Giorgi, il quale poco prima di essere candidato, così si esprimeva su, era un fan militante, chiamiamolo così, di Matteo Renzi, così si esprimeva su uno dei suoi nuovi alleati, cioè Pier Ferdinando Casini. Sentite. 15 minuti, perché la garanzia di avere una legge in 100 giorni che riconosca le nostre coppie, nessuno ce l'ha mai data, e perché Matteo Renzi ha già detto che dell'UDC ne vuol fare a meno. Battuta battuta, devo dire, la battuta, l'analisi politica, perché non è una battuta, è un'analisi politica chiara, diciamo degli ultimi 20 giorni, perché è particolarmente riuscita quella del Premier Monti sul pifferaio. Sul pifferaio. È un Monti che ormai si è tolto definitivamente l'Oden, caro Parenzo. Bisogna dirlo. Il pifferaio. Combatte, usa il linguaggio dei politici. Esatto. Fa promesse. C'è uno fa promesse di ridurre l'IMU, forse anche le tasse, eccetera. Strizza l'occhio all'elettorato più sensibile al tema, appunto, della tassazione. Comunque andiamo avanti. Il pifferaio, no? Senti la cosa sul pifferaio ieri a Porta a Porta. Adesso. Che gli italiani possano ancora credere alla serietà di promesse di questo tipo venendo da quella bocca, mi ricorda una cosa sola, la fiaba del pifferaio di Hamlin con i bravi topini che attratti dal fascino, e il fascino è grandissimo dell'ospite che lei ha avuto l'altro giorno in questo studio, vanno ad annegare in quel fiume. Beh, qui non c'è un'altissima considerazione di quegli italiani che votano per Berlusconi, bisogna dirlo, da tutte le cose che sta dicendo Monti, ma tant'è. Ma anche perché poi che fine fanno i topi della bellissima favola? Questo non è. Perché se gli elettori e gli italiani, comunque ne parleremo forse diffusamente. Sì, esatto, bravo, aspetta, perché poi torna sul pifferaio. Guarda, ecco, senti. Sentite, cari ascoltatori, ancora il pifferaio, rifiuti i paragoni tra me e il pifferaio. Ormai Monti lo chiama il pifferaio, sai quando Veltroni nella passata campagna elettorale non pronunciava nemmeno il nome di Berlusconi? Adesso forse Monti. Il mio principale avversario, credo che fosse. Monti rifiuta i paragoni, sentite. Mi rifiuto di considerare seriamente paragoni di ricette tra un autorevolissimo pifferaio e qualcuno che ha fatto un lavoro duro. Realizzando i programmi. Intanto, caro Parenzo, ti ho invitato questa sera un personaggio. È un personaggione, un personaggio, un grande studio, un grande intellettuale, questo, un grande professore, un grande ma professore. Non parliamo ancora della questione dei gay. No, i gay, no, i gay, abbiamo dato una notizia. Andate a cliccare quei siti che vi ho elencato. Sì. Potete ma trovare. Il nostro ospite, ad esempio, è mai stato. Aspetta, su questi siti Escort non, Now. Non credo proprio, non lo mettere subito in imbarazzo. È un professore di economia stimatissimo, è stato sottosegretario di un sacco di governi. Abbiamo un po' il livello, non ne potevo più di tutta questa umanità che lei propone ogni sera, questa tragica politica. Aspetta, la risposta di Berlusconi, la vuoi ascoltare o no? La risposta di Berlusconi, sì, che ormai conoscono. Ma voglio sapere questo ospite eccezionale. Aspetta, non essere impaziente. È qui al telefono, lo facciamo aspettare un altro minutino. Aspetta, Berlusconi sul piffero. Veniamo ai fatti. Ma lei pifferaio magico si è mai sentito? No, ma no, probabilmente vuole tassarmi anche il piffero. E a cosa si riferiva Berlusconi col piffero? Vabbè, lasciamo perdere. No, a me la cosa che mi ha colpito di più nell'intervista di ieri sera, poi c'è stato anche uno show grandioso a Omnibus questa mattina, devo dire con due ottimi, anzi tutti quanti intervistatori ottimi lì intorno a Omnibus, incalzanti che ribattevano, rompevano le scatole a Berlusconi, ottimo. Cardoni, vabbè, stai zitto un attimo, non cominciare a fare la tua solita lecchinata alla sette, aspetta Milano, un secondo. La cosa su Berlusconi che deve ribadire di essere ipercattolico, questo l'ho trovato eccezionale ieri sera dalla D'Amico, sentite. Io ho una formazione ipercattolica, vengo da una famiglia assolutamente cattolica, con tre sacerdoti e sette zie suore, zie e cugine, e sono stato alunno diligente dai salesiani. Cattolico diligente? Assolutamente, ho servito messa per un mare di tempo. Ma lei fa sempre suonavo, quando era piccolo? Suonavo adesso? L'organo, adesso ho una chiesa nella casa di Arcole, dove tutte le mattine, tutte le domeniche si dice messa e dove si svolgono tutte le funzioni importanti, matrimoni e purtroppo anche funerali che riguardano la mia famiglia. Tre sacerdoti, sette zie suore, servivo messa, c'ha la cappella dentro la cosa, che ha detto pure? Altro c'è? Suonava l'organo, c'è dell'altro o no? Cose da pazzi. Non è che questa è una patente di buon. Ma infatti cattolico, ogni volta però. Dici io sono per chi se ne frega, uno potrebbe rispondere. No, come su Bellutri, dice comunque, no, accuse, sì, che è cattolico, sì, è uno molto cattolico. Vabbè, è pazienza. No, ma non poi è anche su Bellutri dice no, ma poi ha quattro figli. Ma che c'entra? Ma anche sì, se ma uno, poi, magari poi esistono i peggiori, anche tra i super cattolici, i peggiori criminali, per carità, mica cioè, le due cose non no, vanno insieme. Dire, ma è come dire, ad esempio, quelli che parlano adesso non c'entra nulla, ma quelli che dicono, ad esempio, Hitler, però era vegetariano. Ma che c'entra? Però era vegetariano. Allora, il personaggio che abbiamo questa sera ospite, che già sarà imbarazzatissimo dalle nostre cialtronerie, è stato, molti di voi magari lo ricordano, così raffigurato da Crozza. Sentiamo. Ora, lo so, non bisognerebbe scherzare sui difetti fisici, mi scuso con Giarda, però nella conferenza stampa sembrava che Giarda fosse messo lì per sdrammatizzare, perché c'era una fila di gente seria, contrita, c'era la Fornero, piangeva in lacrime, e poi c'era Dumbo, no? Cioè, è la prima conferenza stampa del governo che è piaciuta anche ai bambini. Ed è con noi Piero Giarda, ministro dei rapporti con il Parlamento. Buonasera. Buonasera. Come sta? Grande, ministro, meno male, va? Senta una cosa, ma... No, lei... posso dire che sono veramente felice che alla Zanzara ci sia... No, lo dico seriamente. Che sia... Ministro, grazie per aver accettato l'invito, perché finalmente di quel bestiario che il signor Cruciani ogni sera ci propone, finalmente abbiamo un ministro, una persona seria, che ha lavorato bene in questo governo. Sì. Chi ci questo che ne sai? Se non sai, non sai nulla di quello che ha fatto, non sai ma nulla. Ma che è venuto a fare il ministro Giarda? Cosa mi arriva adesso? Infatti. Scusi, ministro Giarda, io le voglio subito chiedere una cosa, ma lei si è mai offeso per queste cose di Crozza, che ormai risalgono a qualche tempo fa, su queste, sulle sue orecchie, eccetera? Sono le cose della gioventù che si perdonano a tutti, sa, non c'è... C'è un ragazzo, un ragazzotto. Sono ragazzi che devono, poi il mondo dello spettacolo ha bisogno di avere dei riferimenti che attirano l'interesse dei propri ascoltatori. Va benissimo, si può fare, diciamo. Anche scherzare sulle cose fisiche si può fare, sia superiore, no? Scusi un attimo, ma lei avrebbe mai definito, sono una domanda subito, lei è ministro ancora adesso in carica del governo Monti, che è presidente del Consiglio ma è anche candidato. Le piace questo Monti, noi giornalisti diciamo senza loden, insomma, che attacca Berlusconi, il pifferaio, eccetera, eccetera, attacca anche la sinistra conservatrice, eccetera. Le piace più questo Monti o quello di governo? Me lo dica sinceramente. Ma sono due persone che hanno compiti e responsabilità diverse. Quando si entra in politica ci sono delle regole, le regole della politica per potersi affermare, c'è anche quello di mettere in evidenza un po' i limiti dei propri avversari, altrimenti che politica è? No, infatti, lei dice, è inevitabile che Monti, insomma, anche lui... usi certe espressioni, no? Che magari quando era al governo, comunque quando era solo al governo, non avrebbe mai usato. Lei... Certamente. E quale le piace di più? Quale le piace di più? Cioè, a Giarda, un tecnico, è stato sottosegretario di tanti governi, eccetera, le piace più questo Monti qui oppure quell'altro? Ma come Monti, come presidente del Consiglio dei Ministri, è stato, diciamo, un personaggio eccezionale da tanti punti di vista, per il modo con cui ha condotto, diciamo, la propria vita, l'attività del governo, le relazioni internazionali. Credo ha un record ineguagliabile, diciamo, per il lavoro che ha fatto. E questo le piace? A un certo punto ha fatto la scelta, ci sono alcune persone che fanno la scelta di scendere in politica a 17 anni, altri che la fanno vicino ai 70, quindi sono scelte molto rispettabili, però le regole della politica sono regole... Ma lei se lo sarebbe mai aspettato? Cioè, questo modo di comunicare, cioè, oppure anche per lei è stata una sorpresa questo Monti? No, io considero, sono rimasto sorpreso che lui abbia deciso di scendere in politica. Nella competizione, Però una volta fatta la decisione, è una campagna elettorale. Lei direbbe di Berlusconi che è un pifferaio, Giarda? No, personalmente... Non so se lei me lo chiedesse come lo sta facendo adesso in una comunicazione pubblica, è una parola che io non utilizzerei, però io non sto facendo campagna elettorale, capisci? Non so come mi comporterei se adesso fossi in campagna elettorale, che cosa direi. D'altra parte, alcune delle proposizioni che il presidente Berlusconi ha fatto, per esempio in materia di tagli della spesa pubblica, sono proposizioni così aggressive, lontane dalla possibilità di essere realizzate, che sono proposizioni che lui stesso pronuncerebbe solo in quanto è in campagna elettorale, che non farebbe mai. Senta, da questo punto di vista, poi c'è il traffico, il politico più demagogico, lei che è un tecnico che è attento alle... anche se una volta volevano candidare a dell'Ulivo, dunque sicuramente è un po' più, certo non è della cultura politica di Berlusconi, questo si può dire, no? Questo si può dire. Senta, il politico più demagogico, cioè quello che spara più balle secondo lei, chi è? Il primo in assoluto? Proprio il numero uno, il ballista numero uno. comunque è difficile fare delle classifiche, insomma, però, siccome dipende un po'. Però Berlusconi è nei primi tre sicuro, eh? Beh sì, anche nei primi due, diciamo. forse è il numero uno. Probabilmente, diciamo, adesso non userei le parole che lei ha messo, ma nella sua capacità, sì, diciamo, di presentare fatti in modo molto, sì, molto, non so come dire, molto tendenzioso per affermare, sì, la propria presenza, soprattutto, sì, la propria presenza sugli schermi, lui è, credo, insuperabile. Insuperabile. Dunque, no, se non possiamo usare la parola ballista, possiamo usare la parola demagogo. Il demagogo numero uno. Però bisogna tenere presente la campagna elettorale, il contesto nel quale purtroppo poi vabbè, ma lei ormai le campagne elettorali poi man mano che vanno avanti tutti rinsaviscono. Oh, il pifferaio, mi è piaciuto moltissimo questa cosa del pifferaio, il pifferaio. Berlusconi però questa mattina ha detto anche che vorrebbe mettere sotto processo la Boccassini. E beh, sentiamo, Io dico, bisognerebbe mettere la Boccassini sotto processo, ci sono molti motivi. Per esempio, per avere, nel caso di questo processo, impiegato risorse dello Stato. Ma ne sentiamo di tutti i colori ogni giorno. Ne sentiamo di tutti i colori ogni giorno. Allora, abbiamo con noi il ministro dei rapporti con il Parlamento, Piero Giarda. Voglio subito chiedere una cosa a ministro Giarda, che è questa: di chi è la colpa, lei che è ministro dei rapporti con il Parlamento, del fatto che la legge sugli incandidabili, io la sintetizzo in questo modo, non è arrivata a buon fine? Non mi dica di tutti i partiti, ma oppure me lo dica se lo pensa, naturalmente. No, non sono in grado di rispondere a questa domanda perché si mischiano le questioni formali nell'approvazione delle leggi da quelli sostanziali e da volte non è facilissimo. Cioè, c'è qualcuno che ha rallentato di più, che ne so, il PDL, il PD, qualcuno che ha voluto a un certo punto... Chi ha frenato di più su questa legge? Ma penso lo stesso... Non glielo so dire, ma se dovessi esattamente, penso che sia più stato qualcuno dalle parti, diciamo, del PDL. Del PDL, non più dalle parti di Arcore, dalle parti di Arcore. Ma questo non lo so. No, comunque. Più il PDL ha frenato, c'erano più resistenze per arrivare alla conclusione di questa legge da parte del PDL. Questa è la mia impressione. No, è per carità. Osservatore. Beh, diciamo, osservatore adesso. Non ho naturalmente elementi di prova, però insomma, essendo costretto ad esprimermi, certo, esprimo anch'io un'opinione. E la mia opinione è quella. Certo. Senta, ma il voto è segreto, per carità, ma lei Monti, di cui è ministro, lo voterà? Ah, questa è una questione che verrà decisa la sera... prima in un consiglio familiare nel quale verranno prese le decisioni che strategiche strategiche per la vita della nostra famiglia, per la vita del paese. Adesso siamo ancora nella fase lavorativa, abbiamo incaricato una delle nostre figlie di seguire i dibattiti in televisione perché io e mia moglie siamo di una certa età e non riusciamo a sopportare la violenza, diciamo, dei dibattiti, eccetera. Poi Anche Monti è diventato violento, secondo lei? No. Il presidente Monti è molto articolato, insomma, è molto sobrio, ma anche altri candidati. Però mi dica, ha la tentazione di votarlo? La tentazione c'è? Ah, beh, certo, la tentazione c'è, insomma, però, insomma, come le dico, prenderemo delle decisioni. Se vuole richiamarmi tra la sera prima delle elezioni, le prometto che le dico per chi andrò a votare. Però sicuramente non per Berlusconi, questo lo possiamo, diciamo, dire tranquillamente. Diciamo che c'è una bassissima probabilità, non più dell'uno per mille, ecco, che io voti per il Corriere. Senta, ma è vero che una volta lei, oppure è stata tutta una cosa montata, non voleva sedersi accanto alla Fornero, oppure quel video che è circolato in realtà è semplicemente perché non aveva visto il posto, non aveva visto il suggerimento che le veniva nella vita di ogni governo ci sono vicende mitologiche che è meglio che si alimentino, perché poi restano nella memoria collettiva. Non è vero nulla. Io ho una forte amicizia e stima per il ministro Fornero e non sarà una borsa, diciamo, su una sedia abbandonata che ci divide nella nostri rapporti, sì. Quindi è una storiella bizzarra quella che, diciamo, in termini di realtà non ha nessun fondamento. Senta una cosa, ma lei mi dicono sia abbastanza cattolico, ma ha sentito quella frase che abbiamo fatto prima ascoltare di Berlusconi, no? Quella in cui lui ha ogni piè sospinto e questa volta addirittura elencando le suore, si proclama ipercattolico. Non è un po' fastidioso quando uno deve rimarcare che di essere ipercattolico per uno che ha fede, che magari alcune volte... Se le proposizioni sono vere, e io al momento non ho ragione di dubitare, è la dimostrazione che, insomma, che dovrebbe essere cresciuto in un ambiente favorevole, diciamo, all'affermazione della verità, dell'amore per il prossimo, della ricerca, diciamo, di soluzioni che contemperino la vita di tutti i cittadini, eccetera. E quindi se questo è così, dobbiamo prendere atto che abbiamo di fronte, diciamo, una persona molto interessante e particolare. Cioè, molto, diciamo, un Giano bifronte, insomma. Un po'. Ma se lei dovesse paragonare, lei che è un uomo contraddittorio, se lei dovesse paragonare Berlusconi a un'opera lirica, lei che è grande esperto, a cosa lo paragonerebbe come personaggio? A un qualche personaggio dell'opera lirica. Ci sono dentro. Chi le viene in mente per primo? Ma per esempio qualche protagonista del Simon Boccanegra, sa, dove c'erano queste lotte politiche, tradimenti, cambiamenti di maggioranza, cambiamenti di opinioni. Vado a scovare e la ringrazio. A presto, grazie. Giornale Radio. Siamo ancora a casa, Simo. C'è l'aria nel letto. E certo che siamo ancora qui. Questa è la Zanzara, 800240024. I siti di proprietà di Alessio De Giorgi, della società che controlla Alessio De Giorgi, candidato omosessuale nella lista Monti, contro il quale noi, caro Parenzo, non abbiamo nulla, assolutamente nulla, abbiamo semplicemente delle notizie, sono stati chissà perché oscurati. Cioè, se voi andate dopo la notizia diffusa dalla Zanzara, sono stati, insomma, non si possono più consultare, lo può fare solamente l'amministratore, mica lo fa la polizia postale, perché è tutto legittimo, è tutto legale. La nostra domanda era semplicemente questa: professor Monti, premier Monti, lei conosce tutta l'attività imprenditoriale del signor De Giorgi, verso il quale noi abbiamo il massimo della simpatia, siamo al suo fianco in tutte le battaglie. Ho dei dubbi sul fatto che la sua attività, tutta la sua attività, sia... A me non me ne frega niente delle cose penali, le vicende amministrative dei locali. Quei siti, cioè quel tipo di business è incompatibile con la sobrietà di Monti? Non lo so, io chiedo al professore, è a conoscenza di tutta l'attività, imprenditoriale? Sì o no? Titoli del TG30. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Due anni di cassa integrazione alla Fiat di Melfi, la Fion preoccupata, Marchionne solo per ristrutturare l'impianto, nessun'altra chiusura di fabbrica in Italia. Berlusconi attacca ancora Monti, un leaderino sotto shock per i sondaggi, poi lancia Draghi per il Quirinale, la replica sono impegnato fino al 2019. La polemica sinistra sulla desistenza, Bersani non l'abbiamo mai chiesta, ma chi non vota PD fa un favore al Cavaliere, ingroia, il nostro è un voto utile. 169 simboli ammessi al voto su 220 presentati, bocciati Loghi, Civetta, Di Monti, Grillo e Ingroia, e la Lega deve correggere il suo. Le motivazioni della sentenza della consulta sulla trattativa Stato-mafia, le telefonate vanno distrutte, il Colle deve contare sulla riservatezza assoluta. Gli Stati Uniti commemorano le vittime innocenti della scuola di Newtown, Obama propone misure sul controllo delle armi, ma le lobby resistono. Le anticipazioni di un'intervista in TV del ciclista Armstrong, già squalificato per doping, è vero, ho preso sostanze proibite per vincere. non c'è da essere preoccupati, Parenzo. Assolutamente no. Però sai che quando metto questa musichetta, che è la musichetta della Pantera Rosa, beh, significa che c'è un giallo in corso. Certo. Io dico, non bisogna essere preoccupati. Però le indagini sono ancora in corso. Ancora non è stato acciuffato, non è stato perquisito, almeno da quello che sappiamo. Siamo in collegamento diretto con gli interessati in provincia di Como. Beh, insomma, però ha colpito molti questa telefonata arrivata alla zanzara di un poliziotto, uno che si qualifica come tale, pare che non sia però un poliziotto, ma comunque un pubblico ufficiale, sì. Entro alla camera e sparo a destra e a sinistra. Ho il porto d'armi, entro in Parlamento e sistemo tutti. Così sono sicuro di sistemare l'Italia. Non fatevi venire, cari ascoltatori che siete in macchina, cari ascoltatori che siete a casa, cari ascoltatori che siete in albergo, che siete con le vostre mogli, fidanzate e barra o amanti, ecco. Non fatevi venire strane idee, sono tutte delle stronzate pazzesche e queste persone vanno condannate senza se e senza ma. Io la soluzione ce l'ho. Qual è la soluzione? Ho un porto d'arma, una Glock con due caricatori 15 colpi, un fucile a pompa, quasi 50, io andrei a Roma, sono maestro di karate, ho anche una katana, entro dentro, metto la sbarra, sono sicuro che sistemo l'Italia. Una volta entrato in Parlamento così, che cosa fa? Io comincio a sparare a destra e a sinistra. Una volta che sono dentro tutti, io chiudo, non faccio più nessuno. Poliziotto in servizio, certo. Sì, certo. Se faccio servizio, faccio per bene. Una notizia che non è una notizia, invece. Intanto ingroia, attacco la consulta sulla vicenda della trattativa Stato-mafia. C'è questo doppio binario di ingroia. Male, ma magari ne parleremo. E ne parleremo con un altro ospite di grande livello. Un ospite di grandissimo livello che arriverà verso le 19.40, 19.43. Direttamente. Mancino, signor Mancino. Direttamente da Palermo arriverà. Aspetta un attimo, fermo. Lì c'è questa notizia che non è notizia di Berlusconi e Draghi, diciamola tutta. Io ho detto oggi, ho scritto su Twitter, ma di che stiamo parlando? Una domanda dell'ottimo Marco da Milano, che vuole sapere qual è il candidato nascosto di Berlusconi per il Quirinale, ha detto, ma Draghi l'ha detto lui, ma Draghi? Berlusconi ha detto sì, che se ci fosse una maggioranza lo voterebbe, poi ha aggiunto, ma sta bene dov'è? Lì alla Banca Centrale Europea, che viene a fare qui a fare il Presidente della Repubblica? Meglio fare il Presidente della Banca Centrale Europea, no? Cioè, se guadagna pure di più, penso. Comunque, è diventata una notizia. Draghi al Colle, in realtà non è così. Comunque, sentiamo Draghi al Colle. Mario Draghi sarebbe un candidato buono per il Quirinale? Avrebbe le carte in regola per fare il Presidente assolutamente della Repubblica? Sì. Assolutamente sì. Lei lo voterebbe? Sì. Se ci fosse una maggioranza che lo proponesse, lo voterei. E sarebbe un candidato ascrivibile alla sinistra? No, assolutamente. Sono stato io che l'ho voluto governatore della Banca d'Italia. Ovviamente Draghi ha risposto, io sono impegnato alla Banca Centrale Europea, eccetera, eccetera, eccetera. Poi c'è stata questa cosa stupenda. Ha nominato tutti lui. Le manette con Ingroia pure è stato bello, le manette con Ingroia. Stupendo. Ha incrociato all'uscita della 7 Ingroia e si è messo con le mani così, come dire, ecco, arrestami. Mi consegno. Guarda Berlusconi che fa un gesto, porco, diciamo, evocativo, non so. Le mando un messaggio. Ma fa un gesto che aveva fatto una volta Mourinho quando era allenatore dell'Inter. Quindi perché sa che sono il tifoso dell'Inter. Anche questo ci divide. Solo per quello. Pare sicuro Cosentino, Silvio Blinda Cosentino. 800 24 00 24, ascoltatori, Marco dalla provincia di Torino, buonasera. Buonasera Cruciani e buonasera Parenzo. Vada, dica. Il mio intervento è solo perché ieri sera mi sono sentito tirato in ballo, cioè gli è andato del pizzeraio a Berlusconi. Io, siccome sono il piffero, ivre, pieno di pifferi, hanno preso i pifferi, perché i pifferi sono molto meglio di Berlusconi. Però lui ha detto pifferaio, che c'entra i pifferi, l'oggetto, i pifferi? È uno che suona il pifferaio. Vabbè, ma non è che ha offeso i pifferi, scusi Marco. Ha offeso magari la categoria di chi suona. Ma assolutamente, ha offeso i topini magari, quelli che vanno dietro al pifferaio. Comunque, si è sentito, credo, ma perché Ivrea non vada dietro alle notizie che Berlusconi continua a dare tutti i giorni. Vabbè, quello è un altro discorso. Scusi un attimo, ma perché Ivrea fanno i pifferi? I Ivrea c'è il Carnevale, i Pizzeri è un gruppo di tradizione antica, sì, che tiene conto di una vasta area che è tutto il canavese, quindi ci sono 20 o 30 gruppi di Pizzeri. 20 o 30 gruppi di Pifferi. Sì, beh, divertente. Va bene, grazie. Moreno da Firenze, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Allora, io vi attacco un pochino perché voi prendete un po' per il culo Silvio, no? Pifferaio, cioè, giocate, fate il vostro mestiere perché siete carini da sentire, no? Però, di fatto, tutto questo, cioè, tutto questo ambaradan, la colpa è... Quale ambaradam, scusi, qual è l'ambaradam? Cioè, dell'ambaradam, cioè diciamo dell'ascesa in campo di Silvio, è tutta colpa del PD, dei comunisti, dell'apparato che hanno voluto tagliare in tutti i modi Renzi, perché altrimenti... Però è una storia, è una storia passata, anche secondo me Renzi avrebbe stravinto e avrebbe attratto ho capito, Moreno. Pagina, ho capito, ma con i se e con i ma la storia non si fa. I comunisti, io ho votato comunista da ragazzo, lo sa cosa mi diceva un professore quando votavo? Io cosa gli diceva? Una cosa, ai comunisti è più facile metterglielo nel culo che nella testa, e questa è la realtà. No, me la spieghi bene, me la spieghi bene. Perché questa girata e riperdano di nuovo, capito? Riperdano di nuovo. Cioè non riesce a vincere Bersani non riesce a vincere. No, vince Silvio di nuovo. Ma no, ma glielo dico io, ma di che si ragiona? Di Monti? Ma Monti ci ha reso un paese triste, cioè siamo tristi, eravamo un paese dove eravamo la rappresentanza del lusso, ci ha reso tristi. Ho capito, adesso voglio dire, non è che un anno di governo Monti, 12-13 mesi, hanno distrutto l'Italia, forse... Ma Monti forse... non conosce niente, è uno che ha sempre camminato... a 4 metri, 10 metri da terra. Ho capito, grazie Moreno, grazie. La cosa che si capisce è che Monti non è molto popolare, Francesca D'Avarese, non solo tra gli ascoltatori di Radio 21. Adesso questo dice, reso un paese la mia impressione, qui tra il popolo della zanzara. Francesca D'Avarese. Stupidaggine. Françoise, dica. Sì, buonasera. Vada. Gli ultimi eventi televisivi ci hanno insegnato che l'importanza del fact checking. Del fact checking. Che c'è da controllare stavolta? Per confutare l'affermazione che è apparsa ieri sul sito del giornale, ora Monti insulta, riferendosi appunto al pifferaio. Al pifferaio. Io volevo semplicemente ricordare dall'ottimo blog di Non una cosa seria, che si è dato la pena appunto di andare a fare una ricerca, e proprio il giornale ha il copyright di questo appellativo, in quanto lo ha addirittura 4 volte, nel 2000 a Giuliano Amato, poi a Bertinotti, cioè, ha usato la parola pifferaio più volte, sempre a vario titolo pifferaio, Veltroni addirittura nel 2007, ma forse il giornale si riferisce agli elettori, ai topini. Il mitico Granzotto a Fini, pifferaio che andò per suonare e Fini suonato. Questo vabbè, la parola pifferaio utilizzata più volte anche dal giornale. Grazie. Probabilmente vuole tassarmi anche il piffero. Oscar Giannino, sempre presente qui alla Zanzara, sempre presente. Capolista in Piemonte per Ingroia, sembra. Sì. Sarà Ferrero alla faccia della società civile, dicono quelli che sono arrabbiati in Piemonte, non è che lo dico io. Ferrero, ex ministro di Prodi, eccetera, eccetera, nonché segretario di Rifondazione Comunista. Beh, però diciamo che non c'è soltanto Ferrero. No, c'è no, anche aspetta. Che è salita sul campanile di San Marco. Sì, ma sto dicendo in Piemonte. Sì, Sandro Ruotolo, certo, aspetta. No, perché te lo sei. Tra poco parleremo anche di Sandro Ruotolo. Andiamo a sentire la Minetti, che è tornata come testimonial di non so quale fiera per gli sposi. Per gli sposi, hai capito? Per gli sposini, signora Minetti, circondata sempre da giornalisti, eccetera, eccetera. Sentiamo il matrimonio, soprattutto la sua idea del matrimonio. Senti che interessante. La mia idea del matrimonio è amore, famiglia, impegno, quello che comunque rappresenta un po' per tutti quanti, no? Oddio, forse non è vero, però spero un domani di incontrare la persona giusta, di innamorarmi, che questa persona speriamo si innamori follemente anche di me e quindi di sposarmi. Beh, pensieri di altissimo livello, direi, no? Top. Mi tocca difendere il signor Rabinetti, ma te l'hai intervista. Ma sì, hai ragione, hai ragione. Però Love aspetta, of my aspetta. Life. Ah, aspetta. Com'è? Non ho capito. Love of my life. Tesoro, sì, ma ancora la Minetti, sogno di convogliare, che poi è convolare, però vabbè, gliela possiamo passare questa, sì. Convogliare a nozze. Forse pensava a qualcos'altro, diciamo. Sentiamo. Quindi io non posso sposarmi. Vabbè, dai. Sono una giovane donna che un domani sogna comunque di convogliare a nozze, per cui anzi io ho espresso il mio parere nella maniera più onesta, più sincera e più spensierata possibile. Convogliare a nozze, vi ho inventato una nuova cosa. Love of my life. Lo so, però convogliare non si dice, si dice convolare a nozze. Uno si presenta come testimonial di non so quale fiera sugli abiti da sposo, insomma, almeno convolare, ci sono alcune regole fondamentali, convolare a nozze si dice. No, ho capito, non è che stai parlando con chi era adatto la Treccani, scusa, ho capito. No, però, ho capito, convolare, non convogliare, convogliare sì. Comunque guarda, dimmi. Non c'entra con la sera. Senti, ma Berlusconi che dice di Fini e Casini che sono partiti di proprietà familiare? Ne vogliamo parlare? Vabbè, ma qui è il bullo. Aspetta. Voi siete abituati ai partiti con dentro Fini e Casini che hanno partiti di proprietà, partiti di proprietà familiari. Apprezzo la coerenza di Casini, perché ho visto che, dato che loro sono sempre molto vicini alla famiglia e schiera i parenti, quoziente dice, familiare, visto, sì. Hanno introdotto un quoziente familiare anche nei candidati. Candidano 4 figli di candidati precedenti, il nipotino di De Mita, il genero fidanzato e il della suocero, figlia, sì. di Casini. Ah. Fidanzato della figlia in realtà no, perché è stato sconfessato l'altro giorno dallo stesso Casini dicendo che si sono lasciati. Comunque il tasso di nepotismo anche nelle candidature è vergognoso in tutti i partiti. Ce n'è anche nel PDL ovviamente, ma anche nel PD. Da domani inizieremo una grande campagna, caro, una grandissima campagna per smascherare queste furbizie, perché alcune volte succede che cosa? Che non si possono candidare perché magari sono al termine dei mandati, oppure la politica insomma costringe alcune persone alla panchina e allora vogliono mantenere il nome e magari acchiappare lo stesso i voti candidando Avanti il figlio, soprattutto il figlio. Anche nel PD, fammelo dire a me, che poi sennò mi dicono anche nel PD che... certo, anche io ho detto anche io nel PD, anche nel PD avere subito in mente un nome, ad esempio subito Cardinale, si chiama subito un nome subito, però così, la Cardinale era già stata eletta prima, non sarebbe la prima volta, sì, comunque è uguale, sì, certo. Comunque i voti sono quelli dell'ex ministro Casini, per esempio, candida la cognata, il quasi genero, come abbiamo detto. Poi ci sono anche altri figli di deputati dell'UDC o di eurodeputati, il figlio di De Mita, che però è assessore in Campania, vabbè, eccetera eccetera. Di una cosa sui bambini, dai. No, vabbè, dopo le 20, dai, dopo le 20, questo è pesante, dopo le 20. State con noi, dopo le 20 abbiamo una cosa molto pesante, però alle 19:38. Dopo le 20 già cominciate a prepararvi, legate i vostri bambini con uno spago. Ma ti è piaciuto molto. Berlusconi che è un po' picchiato da Milano col cartello? Ma quello non è che l'ha picchiato, ha dato una botta. Sì, gli ha tirato in testa, è stata una violenza inaudita. Ma quale violenza inaudita? Ma che stai parlando? Violenza inaudita. E io non sono riuscito a fare una riforma della giustizia, perché i soliti Fini, Casini, Follini e gli altri non me l'hanno lasciata fare, non riuscito a fare nulla ai cittadini. Io ho fatto tantissimo, fatto. Presidente, Presidente, onorato, io era preso la cartellata. E poi nel privato è tipo lì Sirolo che mi permetto anche questi gesti. Il peso leggero, affettuoso. Ma poi lei mi ricorda i cantastorie della mia infanzia. Scusate, un break, un gong dire, da Milano, un gong. Bene, Claudio da Pisa, poi Stefano da Macerata e tanti altri. Entriamo nel vivo, sono carichissimo anche stasera. Non mi ammosciare, Parenzo, ti prego. No, mi sembra ottimo. Chi c'è? Claudio da Pisa. Love of my life. Vabbè, ho capito. Claudio da Pisa. Pronto, buonasera. Vada. Ho sentito all'inizio che vi chiedavate se Presidente Monti fosse a conoscenza delle attività di De Giorgi. sì. è senz'altro a conoscenza, perché bah. Oltre ad essere un personaggio conosciutissimo in Toscana, perché ho capito, ma conosciuto tra chi? Cioè, bisogna vedere, sì, certo, conosciuto in Toscana come imprenditore di locali, due locali famosissimi a livello nazionale, il Mamma Mia, il Frau Marlene a sì. Torre del Lago, ecco, ma non credo che il professor Monti li frequenti, ecco, non so no, ma comunque, anche se non lo sapesse, ha provveduto lui, perché ha dato amplissime interviste in questi giorni ai quotidiani Il Tirreno, La Nazione, che è anche sì, un sì. regionale. E nell'intervista gli viene appunto chiesto come mai è andato con Monti, che sì. non ha nel suo programma niente relativo ai diritti degli omosessuali. E lui come ha risposto? E lui ha risposto che ci è andato perché l'agenda politica economica di Monti è precisamente quella di Renzi e di Chino, personaggi che lui stima moltissimo, mentre sì. ritiene che Fassina e Camusso siano difensori del corporativismo. Sì, ma no, non è che Monti l'ha preso perché è difensore delle idee di Renzi e di Fassina o di Chino, ma eccetera. Penso proprio di sì, perché l'intervistatore gli chiede poi come mai, dato che Monti non ha alcun punto sì. di difesa degli omosessuali, e lui dice sì, lo so che lui non ce l'ha, però non ha nemmeno detto no esplicitamente. Comunque, se venissi eletto, la prima cosa che farei sarebbe una proposta di legge per la pensione di reversibilità sì. per le unioni. Va bene, e dunque la sua conclusione qual è, caro Claudio? La mia conclusione è che queste persone erano nel centro-sinistra esclusivamente per interesse personale, era l'appoggio del PD in regione per fare i suoi affari, i suoi locali. E ora che minimamente il PD fa vedere una leggerissima attenzione per i temi sociali, queste persone scappano perché hanno paura, magari. No, perché qualcuno gli offre un posto, punto, in Parlamento. Gli offrono posti anche perché hanno paura, come imprenditori, sì. che magari il prossimo governo, quello, se fosse. Vabbè, quello mi sembra. Il Camusso farebbe più male a loro che ai loro dipendenti. Va bene, questo. Grazie. Stefano da Macerata, buonasera. Buonasera, grazie di avermi convogliato nella vostra trasmissione. Mm. Allora ho capito, se non parla però. Mi chiedevo un paio di cose. La prima, se quando il Cavaliere faceva quei festini di cui si parla, c'erano anche da noi nelle Marche ogni tanto ti vengono a trovare, no? Qualche parente, qualche zio. Speriamo che non era quella la sera in cui le suore, i preti, lui serviva messa, che andavano a trovarlo, perché poi non credo. Una sorpresa. Voglio dire questo, io lavoro con l'estero molto brevemente, ogni tanto racconto ai miei interlocutori tedeschi, norvegesi, eccetera, che racconta? Quello che sta succedendo in Italia nella campagna elettorale. E allora? Domani gli manderò un'email con queste frasi delle sette suore, 5 sacerdoti, eccetera, e siccome loro mi rispondono e ridono ogni volta, vediamo, cioè, siamo un branco di pecore. Pecore, che vuol dire siamo un branco di pecore? Pecore, che vuol dire che, secondo me, allora c'è questo detto, no? Perché poi Silvio è convincente, parlando, cerco di trasmettervi qual è l'opinione del popolo. Ma quale l'opinione popolo? Del popolo, adesso l'italiano. Il popolo italiano sta pensando che Berlusconi stia recuperando. Beh sì, non è che lo dice solo il popolo, qualche sondaggio lo dice. Okay. Il divino hotel. Faccio questa domanda: dove questa campagna elettorale, in quale altro paese che non sia l'Italia, questa campagna elettorale porterebbe voti? In tutti i posti del mondo, in America... la rimonta a un certo punto, poi si è interrotta la rimonta di, come si chiama, del candidato repubblicano. C'era stata una mini rimonta di un candidato repubblicano, Romney, grazie ai confronti televisivi. Dunque, con i toni di Berlusconi. Ma lasci perdere, ma Berlusconi è un unicum, non lasci perdere i confronti. Io di questo parlavo. Il problema è che la televisione è una delle componenti. In alcuni casi fondamentale, in alcuni casi no, dipende, è una delle componenti. Grazie. Luciano dalla provincia di Perugia, buonasera. Luciano. Fra poco grande Luciani, collegamento buonasera. Con Palermo, grande collegamento con Palermo, state lì fermi. Allora, Luciano, dica. No, volevo dire che il cavaliere deve stare tranquillo, perché siccome il piffero ce l'ha di gomma, le tasse non ci sono, è esentasse. Oh, il suo piffero è di gomma e va benissimo così. Ecco qui. Poi volevo dire un'altra cosa, così un po' sopra le righe. Ce l'avete sempre costi che sempre... Ma ce l'abbiamo che vuol dire? È mesi che non ne parliamo. Parlate con una normalità che non è normalità. Secondo ma che me vuol dire con una normalità? Ce l'avete anche voi. Cioè, mi spieghi che pruderia abbiamo noi? Sì, perché ne parlate in una maniera che... Cioè, siamo morbosi, secondo lei? Siamo no, morbosi. Non siete morbosi. Dalla mia parte si dice che fra il lusso e il brusco, no? Cioè, che facciamo? Eh? Che facciamo? Lo dica chiaramente, tranquillamente. Ma qui si può parlare. Mio che diceva che adesso non c'è più anima sua, che la figa piace a molti, il cazzo piace a tutti. No, beh, sia un po' come più dice, chiaro. Come dice, scusi, professore? Come dice, maestro? Professore, scusi? Scusi, professore, può ripetere scusi, questo concetto? Professore? Luciano? Sì? Può ripetere questo concetto, maestro? No, l'ho detto una volta, basta e avanza, sono stato volgare una non volta abbiamo capito bene. Non ho capito bene, professore, scusi. Che senso, lei, il professor Luciano, grande statista, intellettuale, eccetera, che ha espresso questo concetto fondamentale. Ce lo può ripetere? Efficace. Pronto? Vabbè, non lo vuole ripetere. È sparito. Bene, da Palermo, direttamente da Palermo, beh, uno dei grandi protagonisti del processo sulla trattativa Stato-mafia, uno con cui Ingroia, insomma, era non dico intimo, no, Ingroia ora candidato, però insomma, uno che... Buscetta? No, che c'entra Buscetta? No, uno che Ingroia una volta trattava con i guanti e poi invece i due non sono più andati d'accordo. Adesso la metto così per far capire agli ascoltatori. È con noi Massimo Ciancimino, buonasera. Buonasera Cruciani. Come andiamo? Come andiamo? Bene, andiamo avanti. Andate avanti. Grandi amici siete. Senta, ormai, grandi amici Ciancimino Cruciani. Io sono amici. Molto preoccupato per il processo in cui lei è imputato, adesso non ricordo di cosa, anzi sì lo ricordo, me lo sono segnato, ma eccetera. Lei è preoccupato quanto me del suo processo, Ciancimino? No, non sono preoccupato, proprio ieri hanno parlato i miei difensori, è un processo che mi vede in doppia posizione, quella di indagato e quella di teste privilegiato, come ha scritto il dottor Ingroia. Prima di darsi alla politica, ovviamente è un processo difficile e secondo me è un processo che purtroppo, e lo dico, mi assumo la responsabilità, potrà trovare novità dopo la fine del settennato di Napolitano. Cioè, che novità, scusi? Fino allora sarà un po' statico. Cioè, che vuol dire, scusi? Questo poi aspettiamo di dirlo nel processo. No, però scusi, non Ciancimino, ho capito adesso, cosa intende. Cioè, lei dice alla fine del settennato ci saranno novità clamorose, lei dice? Credo che si potranno aprire nuovi scenari, vedremo. Nuovi scenari, ma in cui lei è coinvolto direttamente, cose che lei rivela. Io sono coinvolto direttamente, credo in tutto, ero coinvolto in quelle anche che hanno le intercettazioni, ci sono state sentenze che vanno rispettate, aspettiamo. Ovviamente c'è chi si è messo di traverso a questo processo, c'è chi è uscito da questo processo e ha pensato bene di far politica. Credo è un processo che fa discutere e farà discutere, anche se mediaticamente stanno cercando in tutti i modi di... Perché bisogna aspettare la fine del settennato di Napolitano per queste rivelazioni, per queste nuove cose che usciranno fuori in questo processo, per queste novità che esploderanno, scusi? Ma perché secondo me ci sarà più libertà, meno tensione, sicuramente chi ha da parlare sarà meno vincolato dalla presenza. Ma per quello che la riguarda, lei ha intenzione di fare delle nuove rivelazioni alla fine del settennato? Quello che mi riguarda, io starò nel processo a difendermi del processo. Vabbè, d'accordo. Dichiarazione e tutto, poi bisogna aspettare i tempi del processo. No, però lei fa un riferimento preciso. Dimmi, Parenzo. No, dico, ma ormai il Ciancimino lo sa, però la consulta oggi ha detto che bisogna distruggere tutte quelle telefonate, quindi basta, cosa può uscire di così clamoroso ancora se dopo quelle telefonate saranno distrutte? Dopo il settennato che può uscire? Perché lei dice dopo il settennato il processo avrà una svolta? Ho questa convinzione, vedremo. Ha questa convinzione. Ho questa sensazione. Ovviamente oggi la consulta ha detto che il presidente è un cittadino al di sopra di ogni sospetto, sì. Possibile indagine, è impossibile indagare su di lui, è impossibile, insomma, rispettiamo come tutte le sentenze. Cioè, potrebbe essere sentito. Che hanno delle grandi contraddizioni, cioè lo pone al di sopra di qualsiasi tipo di indagine, al di sopra di diciamo così, allora Ciancimino, quando Napolitano, e poi chiudiamo questa crisi, quando Napolitano finirà il settennato, lei, visto che è imputato in quel processo, chiederà a Napolitano di venire a testimoniare, cioè lo prenderebbe come, lo porterebbe in tribunale come testimone? Queste saranno valutazioni che faremo con la mia difesa, sicuramente. Ma ci ha pensato, agli occhi però. Miei, agli occhi di tutti, credo che sarà un cittadino qualsiasi. E quindi potrà andare... E quindi potrà venire a testimoniare, sì. Beh, è senatore a vita, sempre. È senatore a vita. Ma i senatori a vita per adesso vanno tanto di moda, non credo che sia, insomma, fanno di tutto. Comunque è un suo, è un suo obiettivo, possono anche è un suo obiettivo quello di portare Napolitano a testimoniare alla fine del settembre. Obiettivo. Io, il mio obiettivo credo che sia di cercare la verità. No, d'accordo, credo però che nessuno si deve porre in mezzo a questa ricerca, poi vedremo. Vabbè, vedremo. Anche con l'aiuto di Napolitano. Vedremo, anche con l'aiuto di Napolitano. Speriamo che una volta che ha lasciato il Colle possa essere utile nella ricerca della verità. Ma secondo me non sa niente sulla trattativa Stato, ma lo sa secondo me. Questa è la mia convinzione, scusi, non sono un tecnico di questo processo, per carità. La mia convinzione è che Napolitano sulla trattativa Stato non sa niente. Invece, sono in tanti a non sapere. No, secondo lei invece sa? Sono in tanti a non sapere, a non ricordare. Vedremo. Ah, ecco, vedremo, vedremo. Scusi un attimo, io lei lo voterà in Groia? Guardi, dare endorsement al dottor Ingroia credo che gli farebbe danno. Beh, appunto, che ne so, se lo vuole... No, non ne ho intenzione di far danno a Ingroia. Ingroia non è simpatico quando gli fai danno, devo dire. In che senso, scusi? Nel senso che conosco il dottor Ingroia. Ha paura di Ingroia? Paura di Ingroia no, non ho mai paura del dottor Ingroia, no. Ma come la definì? Quando andavate d'accordo, come la definì Ingroia? Ma credo che andiamo sempre d'accordo. Vabbè, quando insomma lei era un testimone apprezzato da Ingroia, dopo di alcune cose che sono successe. Mi definiva americano, uno che amava andare in TV, uno che amava andare ai Festival dell'Unità, uno che amava presentare libri. Uno a cui piaceva sempre essere in video, forse si guardava allo specchio mentre scriveva il mio non ho capito, quello era Ingroia o come Ingroia definiva lei? No, era come Ingroia definiva me, era troppo mediatico. Ma credo che insomma che ormai l'esigenza del dottor Ingroia di esternare al di fuori del processo ormai l'abbiano giustamente spinto a fare politica in primo piano. Scusate, ma io non ho capito perché dire la lista Rivoluzione Civile di Ingroia, lei la vota o no? Questo voglio capire. Ma guardi, le piace? Non so, ancora sinceramente non so chi voterò, non so se andrò a votare. Sicuramente è l'unica grande assente di questa campagna elettorale, credo che la coerenza. Credo che nei 120 simboli dei partiti allora. Quello sa la politica, che manca la coerenza, sa la politica, da tutte le parti. La politica è figlia dell'incoerenza, anzi è l'incoerenza sia dappertutto. Ma anche Ingroia è incoerente? Ma sicuramente non è che è stato molto coerente col suo mandato di magistrato, comunque per aver lasciato il processo. Come magistrato spero di poterlo apprezzare come politico. Però è tentato di votare Ingroia, cioè dire c'è una lista, pensato. Ci sta pensando o no? Prego. Ci sta pensando a votare Ingroia o no? Sicuramente nel panorama politico insomma c'è anche Sandro Ruotolo, c'ha soggetti esatto. Lei una volta è andato addirittura in vacanza. È un suo amico? Sì, lo conosco bene Sandro, ha fatto questa scelta, insomma non liberissimo di farla. Però ognuno poi prende le decisioni e ne trae le conseguenze. Non so ora se voterò Ingroia, vorrei ancora capire il suo progetto, credo che in questo momento mi pare molto vago, molto labile. Labile. Non riesco a capire, chiede aiuto, vuole così. Labile. Anche Grasso. Ecco, tra Grasso e Ingroia, se dovesse scegliere chi votare tra Grasso e Ingroia, chi voterebbe? Non me lo chieda neanche. Cioè? Che? Ingroia tutta la vita. Direi di votare Grasso per fare sicuramente danno al dottore Grasso. Sicuramente non. La stima che ho per il dottore Ingroia non è paragonabile a quella che non ho per il dottore Grasso. Addirittura lei non stima Grasso, e come mai? Ma credo che sia reciproca la cosa. E come mai non stima Grasso? Che ma perché ne ha fatto? Perché mi ha fatto o non mi ha fatto niente? Cosa non ha fatto sicuramente? Credo che Grasso debba tenere conto di quello che non ha fatto, non di quello che cioè, ha fatto. Cioè, che cosa è che non ha fatto? Scusi. Cioè, sicuramente non... per 10 anni, da una vita si cercava questo mio tesoro, si è aspettato che moriva mio padre nel 2002 per cominciare la caccia al tesoro. Mio padre si è goduto soldi, privilegi e tutto a Piazza di Spagna e cose. Nessuno è andato a mai cercare questo tesoro da mio padre. Tutto si è mosso soltanto alla morte di mio padre. Non so se questo faceva parte di quella famosa, cioè, lei dice che trattativa. Addirittura lui è in questo famoso accordo c'entra qualcosa anche Grasso. Questo è gravissimo quello che lei dice. No, io dico sicuramente quello che non ha fatto. A me non so se. Cioè, non ha cercato il tesoro di mio padre, dunque non ha fatto il suo dovere. Sicuramente lei dice. Per 10 anni c'è stata una magistratura molto silente. È molto inattiva nei confronti di quello che poteva essere Vito Ciancimino. Vito Ciancimino dal 99 al 2002 è stata a Piazza di Spagna, mai un telefonino è stato intercettato, la procura era sotto la reggenza di Grasso, mai un controllo. Ora si è accertato che Provenzano entrava e usciva da casa Ciancimino, sicuramente non c'è stata una grande attenzione. Oggi, morto Ciancimino, ci sono credo 8 procure che indagano sul tesoro. E quale altre cose rimprovera Grasso? Non è stato un grande, ma lei non lo definirebbe un grande magistrato antimafia? Ma io credo che... Oppure, come dice Ingroia, l'ha messo libero... I grandi magistrati antimafia non sono morti. Sì, cioè, se non è morto, vabbè, non è che può essere però una colpa non essere morto, scusi. No, per carità di Dio, abbiamo una procura di Palermo, guardi, la procura che ultimamente è scesa, Scusi. L'ho vista molto compatta, al processo adattativo, una grande procura retta dall'aggiunto dottor Terenzi. Però lei dice, siccome non è morto, i grandi magistrati antimafia sono quelli morti. Ho capito, però, meno male che non è morto. Magari questo non è un torto, No, sicuramente a quel tempo non si è fatta, credo che sono passati 20 anni per riaprire questo progetto. Cioè, ho capito, questo per quello che riguarda il tesoro di suo padre, ma in generale si può dire che lei dice non è stato un grande magistrato antimafia, anzi sulla mafia... Per personale, secondo me non è stato un magistrato che ricordiamo tutti che grazie a una legge ad personam è riuscito anche a diventare procuratore nazionale. L'ha messo lì Berlusconi? L'ha messo lì Berlusconi, come dice Ingroia? Sì, l'ha messo, ma non è che lo dice Ingroia, io credo che lo dice Ingroia non dica. Secondo me non è così, tra l'altro. Ha goduto di una legge ad personam per ostacolare il dottor Caselli, che sicuramente aveva più meriti e più aveva titoli. Anche più esperienza. Eccoci qui, sono le 8 in punto e vi do anche il numero di telefono 800 24 00 24. Fra poco di nuovo le vostre telefonate. Un'ora con noi, ma abbiamo tante cose, Parenzo, tantissime cose. Siamo in collegamento con Palermo con Massimo Ciancimino, figlio di Don Vito Ciancimino, uno dei protagonisti. Parlate con Ciancimino, telefonateci. Se avete informazioni sulla trattativa Stato Mafia, telefonate al numero 800 24 00 24. Non fare il cretino, no, non fare dico, il cretino. Volevo dirti questo, volevo dire anche al signor Ciancimino questo, che ne hanno parlato nel processo ieri dell'udienza Stato Mafia, è stato ritrovato dentro l'aula bunker di Palermo, è stato ritrovato il busto di Almirante, dentro l'aula bunker di Palermo. Ma non faccio... Sempre far rimproverare dalla signora Almirante. Cioè, è una cosa. No, ma c'è un sacco di gente in giro per l'Italia che è arrabbiatissima con te perché pigli per il culo, per i fondelli, anzi, però insomma, è uguale. Pigli solamente per i fondelli un grande protagonista della politica italiana, uno che è nei cuori di tantissima gente, il signor Giorgio Almirante. Non mi interessa. Glielo dico che se lo vedo gli do una bastonata in testa a questo io. E io dico che è un fascista, era. Si può ancora? Vabbè, ma il busto che c'entra? È giusto trafugare l'hanno i busti? La questione inquietante, la cosa inquietante è come è finito nell'aula bunker di Palermo il busto di Almirante. Questo è il punto che dovrebbe farti interrogare. Sì. Ma che quale è una bunker di Palermo, il busto dell'Almirante? La gente poi ci crede, scusa, la gente qualche volta non riesce a capire quando noi passiamo da un piano di serietà, tra virgolette, a un piano di, no, di cialtronaggine. Vabbè, allora torniamo alla verità, torniamo alle cose serie. Ciancimino, quando vedremo Napolitano in tribunale? Quando lo chiamerà? Lei sogna un po', di vedere Napolitano in tribunale? Ma l'ha detto. O no? No, io non sogno di vedere Napolitano, io sogno di vedere tutti quelli che sono a conoscenza di questo scellerato patto e tutti quelli che ancora tacciono su quella che è la verità. Ovviamente avete visto come la commissione antimafia ha liquidato appunto, la trattativa. Pisanu pochi giorni fa ha detto che non ci furono degli accordi, ma non una vera e propria trattativa, e soprattutto che i vertici istituzionali non furono coinvolti. Scalfaro, sì, Ciampi, Amato. Sì, ho letto. Definisca questa cosa su Pisanu. Pisanu scrive praticamente che ci fu un'intesa tra le parti. Per chi conosce un po' un minimo di concetto di giurisprudenza, significa che ci fu un patteggiamento. Quando c'è un'intesa tra le parti, significa che c'è un patteggiamento. Vabbè, ma voglio dire, il fatto che dice che non sono stati coinvolti i vertici istituzionali, mente sapendo di mentire? Ma ovviamente è il classico rifugio della casta, la casta che processa se stessa. Se la sciascia, lo Stato non può processare se stesso. Pisanu, senza mai ascoltarmi, mi ha definito pure mentitore abituale senza il diritto al contraddittorio. Parliamo di una commissione antimafia che da quando esiste non ha mai ascoltato, mentre era in vita Vito Ciancimino, dal 1970 che è stata costituita la prima commissione antimafia, non si è mai degnata di ascoltare mio padre. Senta Ciancimino, ma qualcuno le ha mai offerto di candidarsi? No, credo che insomma ci siano pazzi in giro, nel senso. Lei magari un po' di voti di piglia a Palermo, no? No, conosco la politica, ne ho conosciuto, li ho visti, non credo che siano cambiati tanti, ne ho visti entrare e uscire, non è... Ma un partito di magistrati, come, o comunque guidato da magistrati, come Rivoluzione Civile d'Inglo, c'è Ingroia, c'è De Magistris, c'è il signor Di Pietro... Persone apprezzatissime, per carità di Dio, ma non amo la... Poco fa ci siamo detti che la politica è proprio l'incoerenza, è il non essere coerente. Io sto cercando di dimostrare a qualcuno di essere coerente, assumendomi le mie responsabilità. Oggi abbiamo visto un ingroia giocherellone pure con Berlusconi, il grande nemico Berlusconi incrociato. Un ingroia in manette. In manette, sì, no, veramente era Berlusconi. Ingroia, in una trasmissione un giorno... Da un giorno da pecora, siamo stati amici un giorno da pecora, si è messo le manette, vabbè, sì. Non deve essere brutto metterle, come idea. A chi? A Ingroia, dice lei. Ingroia, un privilegio, però no, devo dire che si sta abituando e si sta un po' flettendo a quello che è l'esigenza mediatica di comunicare, insomma. Non le piace molto questo Ingroia, mi dica lei. Non dico che non mi piace, un altro Ingroia, ovviamente si adatta al ruolo che ha un po'. Ma ecco, invece il suo tra virgolette amico Ruotolo, con cui ha fatto una vacanza a Panarea, se non sbaglio, no? Giusto? Sì, siamo incontrati, siamo stati a pescare, eccetera, eccetera. Ma come politico, lo vede come politico? Ma io non conosco Ruotolo politico, conosco Ruotolo come giornalista e come abile, appunto un bravissimo professionista. Sicuramente anche lui avrà sentito l'esigenza di concludere, di fare la rivoluzione, di sospendere la sospensione di giornalista per poter essere utile alla politica, per fare la rivoluzione. Vabbè, caro Ciancimino, non ci vuole dire per chi vota, ma voterà per Ingroia, diciamo la verità. Faccio un endorsement, tanto Ingroia che gli frega, un endorsement di più, un endorsement di meno, mi avvalgo della facoltà, il dottor Ingroia capirà, però è molto tentato, le devo dare, diciamo la verità. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. A presto, grazie. Grazie a voi. Grazie. Saluti, signor Ciancimino, mi raccomando. Arrivederci, grazie. Dai, scusi un attimo. Mi era venuto in mente un'altra cosa, però ormai è andato. Pazienza. Giancarlo da Roma, buonasera Giancarlo. Sì, buonasera. Vada. Allora, il mio intervento, vabbè, è molto così, base, molto semplice. Solo che, visto che ormai siamo appunto talmente tanto abituati a sentir parlare di Stato, mafia, in realtà io volevo chiedere una cosa, ma che eventualmente dobbiamo anche assuefarci al fatto di della prostituzione minorile, perché ieri sono rimasto... Cioè in che senso, scusi? No, nel senso che ieri purtroppo lei ha usato il fatto del legittimo impedimento ed era così scandalizzato, ma addirittura in tutta Italia si parla se fare il processo prima o dopo le elezioni. Ma qui si parla di prostituzione minorile, ma un po' di sensibilità? Perché cosa, scusi? Ma come perché cosa? Perché un ex premier è indagato, e quindi noi ci stiamo chiedendo semplicemente se parla prima o dopo le elezioni, e questo è il problema, per la prostituzione minorile. Guardi, la prostituzione minorile certamente è un reato gravissimo, su questo non c'è dubbio. Su questo siamo già non c'è fatti il minimo a tante cose, ma spero che almeno in questo si abbia un minimo di... Io ho la mia opinione su questo, io ho la mia opinione sul processo e sulla vicenda... Ma l'ho anch'io allo stesso modo, però è un argomento Ma che vuol dire? Non è che basta il fatto che uno sia indagato per prostituzione minorile perché sia automaticamente colpevole. Scusi, abbia pazienza. No, c'è un colpevole. Sacco di gente che è stata indagata per i peggiori reati e dopo è stata assolta. Ma certo. Però, allora, però che, scusa, Parenzo, però che. Però la cosa molto grave, la cosa molto Qual è la cosa molto grave? Vediamo il moralista, ritorna sul moralista. Intanto su Dagospia appare una lettera del signor De Giorgi, candidato che è nella lista Monti, Alessio De Giorgi, il quale conferma i siti porno. Candidato della lista Monti, perché bisogna mettere gay per forza, candidato della lista Monti. Così si è, come dire, si è caratterizzato, ma non lo dico mica in senso dispregiativo, tutt'altro. Conferma i siti porno di cui è proprietario, tra virgolette, amministratore, eccetera, che sono stati subito auto-oscurati, e dice, visto che né pornografia né incontri tra persone costruiscono reato, trovo decisamente di cattivo gusto la campagna denigratoria e la sovraesposizione mediatica di cui sono vittima. Ho capito, ma qui non c'è nessuna campagna denigratoria. Per me, signor De Giorgi, che fra poco sarà ai nostri microfoni, lei fa benissimo. Lei fa benissimo, benissimo a fare l'imprenditore in questi settori, anzi ce ne vorrebbero di più, va benissimo, sono per la libertà più totale da questo punto di vista, ovviamente purché si sia nell'ambito della legge. Dopodiché poi noi abbiamo semplicemente detto, ma di tutte queste cose è a conoscenza una lista Monti dove all'interno c'è l'UDC, un certo mondo cattolico, eccetera, però punto, basta. Io a difesa di De Giorgi non voglio fare il soccorso di De Giorgi, ma a difesa sua, ecco, dico, il soccorso gay, avanti. Il soccorso gay, no, quello rosso, no, quello rosso, quello gay. Benissimo, benissimo, benissimo questa attività imprenditoriale nobilissima con cui lui guadagna e vive, perché è straordinario. Meglio questo di candidare i parenti di Casini. Ecco, c'è molta più. Vabbè, ma quello che c'è, è un paragone assurdo. No, bisogna dire le cose come stanno, perché lui è un imprenditore onesto, fino a prova contraria, che del suo lavoro ha fatto, anzi, del suo amore ragione imprenditoriale. Senti, ma certo, bello. Ma per me va benissimo. Adesso ha esageri del suo amore e ragione imprenditoriale. No, va difeso e candidato con i radicali, semmai. Nel caso lo buttassero fuori, lui va difeso. Allora, per non essere eletto, va per non... candidato capolista in tutta Italia perché lui ha fatto dell'amore ragione imprenditoriale. Bellissimo. La zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara dispettosa, fa zazza, è la zanzara. Siamo qui, allora eravamo con Giancarlo da Roma. Giancarlo da Roma, eccoci. Allora? No, ne abbiamo parlato, insomma, appunto, era semplicemente che già ieri, dopo aver sentito, aver visto, aver letto dappertutto il fatto che appunto anche un reato come la prostituzione minorile, che nel quale è indagato Berlusconi sì. Cioè, in realtà fosse usata anche addirittura quell'arma per il fatto di essere utilizzato prima o dopo le elezioni, cioè in una sfida anche questo, si sta mettendo veramente tutto in mezzo, vabbè, che secondo me capito. Era una sensibilità maggiore, nonostante io non ho una figlia, neanche minorenne, ma io penso che ci sarebbe da incazzarsi veramente. Veramente va bene, tanto. Grazie Carlo, provincia di Carbonia, andiamo in Sardegna, dove sarà capolista per la lista Ingroia Zappadu, il famoso Zappadu, il fotografo di Berlusconi, Parenzo. Non conosco, è un mio ma amico. Come Zappadu. No, come no, magari più tardi se abbiamo tempo lo chiamiamo. Carlo dalla provincia di Carbonia. Carlo, dica. Intanto buonasera e complimenti ancora per la trasmissione. Sì, vada. Io volevo un'interpretazione un pochettino migliore del pifferaio magico. Tutti hanno pensato che Berlusconi, con le sue modi di dire, col modo di fare, si trenasse dietro il topolino obbediente che dicendo gli elettori del centro-destra. Secondo me, invece, ha voluto alludere alla grande potenza di Berlusconi in questo testo. Non dimentichiamo. Cioè, non ho capito, scusi, alla grande potenza? Alla potenza, e ora mi spiego. Potenza di che tipo? Sessuale, scusi? Aspetta, devo fare una piccola ancora premessa. Ancora. È passato attraverso un grave intervento alla prostata. Ma che c'entra col pifferaio? Aspetti, ha 78 anni. Ma lei è malato. Pifferaio magico, perché è capace di avere delle erezioni, come dire, soddisfacenti ancora oggi. Beh, no, però Carlo, questo è malato. Altro che le citazioni di De Giorgi che dice che c'è una campagna sessuofobica. Lei si è fatto questo tipo di osservazione, si è fatto questo tipo di pensiero, il pifferaio, il pifferaio del sesso, abbia pazienza, ma sono io che ho qualche problema. Non lo so, adesso non lo voglio dire, per carità, però insomma, no. Potrei anche dirlo. Si vada a fare una visitina. No, io volevo vedere dietro questo problema, mi piace un po' l'ilarità, insomma, il momento più gioioso che non quello del... Vabbè. Grazie, Biagio, provincia di Cosenza. Vada. Biagio. Salve, buonasera, Cruciani, come sta? Bene, lei? Ma tutto a posto. Cruciani, io volevo solamente... Abbassi la radio, Biagio, se no sentiamo male. Biagio dalla provincia di Cosenza, che diavolo sta facendo? Dov'è? In macchina? Sta guidando un camion? Sono in macchina, Beppe, io volevo che lei mi aiutasse. Ma lei è in viva voce? Lei è in viva voce, caro Biagio? No, non sono in viva voce. Stacchi le mani dal volante, acceleri fino a 150, 160, 170 a tutto gas. Stacchi le mani dal volante. Signor Cruciani, alzi la radio. Il Berlusconi sta cercando di far passare fra gli italiani un messaggio che è deleterio. E qual è? È quello che la crisi non esiste, la crisi è una invenzione, la crisi è solamente psicologica. Devo fare una correzione intanto, Zappato ha detto che non si candida, Zappato ha detto, non so quanto tempo fa, qualche minuto fa, una mezz'oretta fa, che non si candida. Dunque, notizia, il fotografo che immortalò Berlusconi a Villa Certosa, ve lo ricordate, no? Nelle prime foto, cioè, che era rubò, informato forse all'inizio non era manco informato, adesso ha detto che non si candida, vabbè, incredibile. Va bene, comunque, Biagio. Allora, le stavo dicendo, Cruciani, lei che fa un servizio pubblico deve aiutare il popolo italiano a capire che questa crisi è una crisi reale, c'è, è tra la gente. Vabbè, allora? E colpisce. Scusi un attimo, però a me fa sorridere questa cosa, cioè ci sono persone ancora, giornali eccetera, che mettono in rilievo le bugie di Berlusconi, cioè le contraddizioni di Berlusconi, cioè ormai siamo oltre con Berlusconi, cioè non è più nemmeno il caso di andare a vedere ha detto quello e allora verificarlo, questa e questa, perché siamo oltre la, come dire, qualsiasi possibilità di verifica o comunque qualsiasi, cioè è evidente... Di qualsiasi livello di guardia ormai è superato. Ma no, perché uno può anche dire ogni tanto delle cose che hanno un senso, però ormai è talmente tutto un grande mischione, è tutto un grande caos, ne dice talmente tante che uno dice perché, magari è come quando la scena, sai, la scena del sì, è inutile verificare, sai, la scena di cosa, no? La scena di quello che Dante Cruciani nel film di Totò, che è lo scassinatore. Fanno le prove per scassinare le casseforti all'ultimo piano di un palazzo da Roma, credo degli anni 50. Un gruppo di ragazzini, ogni tanto. La dace colpo dei soliti ignoti. No, i soliti ignoti, sì, no. Non mi ricordo quel film era. Comunque, un gruppo di ragazzini sotto lo chiamano e fargli uno scherzo e gli dicono: Dante Cruciani, controllo! E lui si affaccia, tutti si nascondono, eccetera, eccetera. E poi alla fine è uno scherzo, i ragazzini lo pigliano in giro. Non mi molesta il moschito, non mi molesta il moschito, non mi molesta il moschito, why don't you go home? Non mi molesta il moschito, let me my burrito, non mi molesta il moschito. Ma vorrei introdurre il nostro ospite delle 20:18 con una canzone che è la nostra canzone guida quando parliamo. Non ne parlavamo da tempo, devo dire, Parenzo, dopo aver condotto una lunghissima battaglia sulle coppie omosessuali, tant'è che siamo diventati anche testimonial di qualche evento, lo voglio ricordare a tutti, quelli che ci accusano in queste ore anche nei messaggi di essere voi siete fissati, siete sessofobici, cosa avete da rimproverare a De Giorgi, candidato con Monti? Nulla, noi siamo stati riconosciuti come paladini della battaglia per i diritti degli omosessuali, matrimoni, adozioni e quant'altro, avete capito? Sia chiaro, comunque introduciamo i nostri ospiti in questo modo. S'approcio, perché c'è da ridire, non vedo che problema c'è, mettiamola così. E infatti non c'è nulla da ridire ed è con noi Alessio De Giorgi, buonasera. Buonasera a voi. Come sta? Ma tutto bene, sto a posto. Precisiamo una cosa, allora lei è candidato in che posizione in Toscana al Senato? Sono quarto al Senato per la lista Scelta Civica con Monti. Quarto al Senato, mi dicono che il primo però è Ichino, no? In Toscana, o sbaglio? Capolista. Sì, esatto. Dunque lei ha quante possibilità? Diciamo vicine al 99%, diciamo giù di lì di essere eletto? No, non così tanto, dipende come quale sarà il risultato della lista in Toscana. Però ci conta, diciamo, no? Diciamo che ci sono buone possibilità, ma non c'è minimamente la certezza. Con quante, cioè ha fatto un calcolo già, oltre se si piglia, se la lista Monti al Senato prende il 12%, lei ce la fa, tranquillo. Più o meno, l'ha fatto lei allora. E che ne so, boh, io... l'ha fatto lei. Mi occupo delle elezioni da un po' di tempo. Allora, veniamo alla cosa di oggi, De Giorgi. Lei ha scritto una lettera ad Agospia adesso in cui dice che è vittima di una campagna sessuofobica, perché alcuni giornali, poi noi stasera abbiamo dato la notizia di questi siti, insistono sulla sua attività imprenditoriale. Cosa c'è di sessuofobico quando uno insiste sulla sua attività imprenditoriale? Scusi, non è mica un mistero, anzi lei dovrebbe essere orgoglioso della sua attività imprenditoriale. Ma io ne sono assolutamente orgoglioso, mi sono il giorno in cui ho citato la candidatura, ma per ragioni anche di etica professionale, sì, mi sono dimesso da direttore di Gay.it e abbiamo cambiato l'amministratore della società. Sì. Però scusi, perché si è dimesso? Non capisco questa cosa qua. Perché lei ha accettato? Perché comunque sia i miei utenti, giustamente, i miei visitatori si aspettano un'informazione corretta dal punto di vista politico, e se io sono candidato per Scelta Civica con Monti, credo che nei loro riguardi sia corretto dimettersi. Bah, io non, questa questo, cosa francamente non la capisco, cioè nel senso che lei fa l'imprenditore, ha questa società di cui è socio di che cosa? Minoranza, di maggioranza, Gay.it? Sì, ho circa il 20%. Il 20% di questa poco società? Più, ora non mi ricordo, 22 mi sembra, non mi ricordo. Cioè è socio di maggioranza, è socio di maggioranza di questa società, o no? No, di minoranza. Beh no, magari 22,5 mi sembra di ricordare. Beh, però è l'amministratore principale, o sbaglio? Ero l'amministratore. Oh, benissimo. Allora, fa un'attività imprenditoriale che certo è iperbenista, è ben pensanti, può far storcere il naso. Certo, ma un'attività imprenditoriale... No, ma è assolutamente legittima. Assolutamente legittima, non capisco perché... non c'è perché... nulla da nascondere. E perché lei non... si è dimesso? Non allora c'è nulla di cui vergognarsi. E perché allora si è dimesso? Ma perché come faccio a essere amministratore di una società se sono impiegato in campagna elettorale, cioè... Io devo rispondere ovviamente a me stesso, per una questione di tempo, per una questione di tempo, per una questione di tempo rispetto alla carica di amministratore, per una questione di deontologia professionale rispetto alla carica di direttore della testata, giornalistica. Scusi, a questo punto continuo ad avere dei dubbi. Visto che lei non ha più, diciamo, non è più amministratore, ne mantiene la proprietà pur non essendone amministratore, perché non fa una bella pubblicità della lista Monti in questi siti straordinari di amore omosessuale? Cioè, voglio dire, siccome ci saranno migliaia. Se la paga non è un problema. Ah, ecco, quindi lei farebbe la pubblicità della lista Monti, bellissimo. Guarda, io nel 2002, non mi ricordo, ho ospitato una campagna pubblicitaria di Forza Italia, il sito internet, ecco, che è quindi it. È pronto ad ospitare fui subissato di critiche da pezzi importanti del movimento gay, ma io la feci perché secondo me è giusto che potrebbe dirlo, faccio un appello mica, a Monti a far pubblicizzavo armi, sito. No? Come mica, scusi? Non pubblicizzavo mica armi, pubblicizzavo un partito politico, appunto. No, ma si figuri, ma... E questo è interessante, potete fare una... No, però la cosa che... Ma perché? No, sì, capisco, d'accordo, adesso l'appello a Monti, adesso non è che facciamo l'appello a Monti faccia pubblicità all'interno di gay.it, nei siti, eccetera. Adesso, ma questo. Vedi che allora sei stupido. Guardate, ma che su gay.it probabilmente ci sarà pubblicità elettorale, delle liste politiche che la pagheranno. Cioè, abbiamo il traffico gay più grosso d'Italia... abbiamo circa 500.000 visitatori unici al mese, quindi ecco, ma il professor Monti ha conoscenza di questa sua attività imprenditoriale? Io mi sono permesso di dire solamente questo, già conosce, cioè, Monti sa che lei è amministratore di questi quattro siti? Monti sa che sono amministratore di gay.it e anche di questi siti di gay.it, forse non sapeva esattamente nel dettaglio che c'erano anche questi siti, ma comunque ripeto, su questi siti non c'è nulla di illegale, Per carità, sono siti in cui ci sono, innanzitutto specifichiamo, sono gaysex.it, gaytube.it, nowescort.it, anche questo, e metoo.com, una cosa di questo tipo. Allora, questi siti qui sono siti in cui c'è sostanzialmente del mercimonio tra quelli che avvengono, cioè c'è qualcuno che paga degli escort maschi? No. E questo lei come fa? Sarebbe reato, assolutamente. Però lei non può sapere quello che avviene poi tra due privati? Ah beh, certo, ma perché escort significa una parola molto chiara oggi, cioè qualcuno quello che fanno nella loro camera da letto, a me sinceramente non è interessante. No, camera da letto è una cosa, quello che fanno è un altro discorso, quello che fanno la camera da letto chi se ne frega, uno può anche pagare per guardare. Però quello che fanno sulla strada, a me non interessa. Io su due siti due di quei siti che lei ha citato erano affiliati con un sito internet americano assolutamente legale dove c'era materiale pornografico. Sì. Banalmente. Sì. Si paga per vedere del materiale pornografico. Esatto, per alleviare la propria solitudine, i propri momenti di solitudine. Vabbè, adesso non è mica detto che sia per questo, alleviare i momenti di solitudine, magari è semplicemente Insomma, diciamo che ognuno lo usa per quello che lo vuole usare. Sì. MeToo è un sito che è online, è una community di incontri tipo Badoo, Mythic, tanti community di incontri che ci sono. Riservati in questo caso agli omosessuali? Principalmente agli omosessuali? Principalmente agli omosessuali e maggiorenni e consenzienti ovviamente. Vabbè, questo, dove questo si incontrano, fanno amicizia, si creano relazioni, fanno anche ecco, però sono sicuro che Monti, dopo che ha sentito, visto che sta sentendo la trasmissione, perché lui è in macchina ora e l'ascolta, ma che ne sai? Lo so perché ho degli insider. Vabbè, allora sono sicuro che Monti, sentendo questo, va a vedere stasera il contenuto. Ma non li può vedere, io non capisco perché li ha oscurati. Scusi, signor De Giorgio, non c'è nulla da nascondere, perché sono stati oscurati tre dei quattro, sinceramente. Uno è online ed è MeToo. Gli altri tre erano oscurati perché, secondo me, questo sì, permettetemelo, ma non è una critica a voi. Cioè, come dire, c'è un po' di sessuofobia in tutta questa discussione, no? Bah, io non la vedo questa modalità. Da parte di alcuni sì, forse da parte di alcuni. È ruginosa, proprio da Italietta, ma non dico che voi state facendo questa, per carità. Però io reputo che sia un po' la discussione da Italietta, perché... No, però scusi, lei dice che c'è, sessofobia, lei dice che c'è sessofobia nel fatto che un giornale in particolare... Lì non c'è, ma sì, perché se quei siti, anziché esserci l'affiliazione con un sito dove c'è materiale pornografico, c'era una affiliazione in un posto dove si vendevano libri, tipo Amazon.com... Ma certo che quello non gliene frega niente a nessuno. C'era il titolo? Non c'era il ma titolo. No, vabbè, ma questo qua... Ma non è sessofobia. Se lei fosse candidato per i radicali, se lei fosse candidato anche con la sinistra, non ci sarebbe nessun problema. Il punto è... Lei ne è sicuro? Beh, no, guardi, i radicali non c'è dubbio, molto ma meno ne è sicuro? No, con la sinistra probabilmente ci sarebbe stato risalto lo stesso, appunto. Perché poi c'è la parte cattolica della sinistra che magari si arrabbiava però io voglio chiedere, De Giorgio, scusi un attimo, la nostra lista è plurale, ci sono orientamenti diversi dentro, ci sono orientamenti laici e orientamenti cattolici. Ma se quello va bene, d'accordo, quello anche nel Partito Democratico è così, ma il punto lei era militante di Renzi, era un militante per modo di dire, naturalmente ha fatto campagna per Renzi, diceva che va bene che Renzi non vada con Casini e poi in realtà adesso lei è candidato con Casini e questa è una contraddizione clamorosa. Io, Giorgio, no, prima non sono candidato con Casini, sono nella stessa coalizione di Casini, è uguale, amabilissima, ma con cui sicuramente ci sono delle divergenze su alcuni temi, ma non sono candidato con Casini, sono nella stessa coalizione di Casini. No, dopodiché, non è solo nella stessa coalizione, al Senato avete la lista unica, cioè avete la lista tutti insieme. Abbiamo la lista unica, certo, ma con l'UDC sono confluite persone di liste diverse. Cioè, allora, Casini ha detto che il matrimonio tra gay... Per la Camera dei Deputati. Certo, no, ma questo lo sappiamo. Certo. Casini ha detto che il matrimonio tra omosessuali è una cosa... E l'adozione sono due cose incivili. Sono due cose incivili. Se lo ricordo o no? Sì, se lo ricorderà, no? Lo ricordo. E lei adesso è candidato insieme a Casini. Amico mio. Casini, l'altra sera in televisione ha detto, dalla Nunziata, ha detto che trova che assolutamente la mia candidatura sia... Legittima. Sì, no, ma questo l'ho sentito. Torniamo dopo la borsa, De Giorgi. Sembra che sia già questo un buon risultato, no? Cioè, lei dice che grazie al nostro ingresso nella lista Monti, Casini si è un po' moderato su questo tema? Dico che due persone omosessuali dentro una lista di centro servono anche a far dialogare con la cultura cattolica parti del paese che non ha mai dialogato con la cultura cattolica o che l'hanno fatto. Segno di pluralismo. Casini ha detto che non c'è problema per la nostra candidatura, eccetera eccetera. Ci sono anche posizioni, insomma, che sono totalmente antitetiche alla sua. Ricordo quella di Mario Mauro e di altri dal punto di vista delle unioni tra gli omosessuali, dei diritti, per non parlare dell'adozione. Lei è d'accordo con l'adozione o no? Io credo che, allora, bisogna distinguere se parliamo di delle cosiddette famiglie omogenitoriali, cioè di due donne, per esempio, che ricorrono all'inseminazione artificiale per avere un bambino, in quel caso bisogna dare delle risposte, ma a tutela del bambino. Per quanto riguarda invece le adozioni... No, adozioni tu cura. Per le adozioni di altra natura, ecco. Sì. Lei è d'accordo sul fatto che due uomini o due donne... Io penso che il paese non sia ancora pronto, che tra l'altro il problema non si può... Sì, ma lasci perdere il paese pronto. Lei è d'accordo, sì o no? Io in linea di principio sono d'accordissimo. Oh, lei è a favore delle adozioni tra gli omosessuali. Io sono in linea di principio assolutamente d'accordo. Cioè lei non ha mai pensato... Però dal punto punto di vista politico, dal punto di vista politico, credo che il che non sia un tema da porre all'ordine del giorno, perché non è. Lei si è un po' allineato, si è allineato subito. No, no, Monti, no, guardi, guardi, le giuro su quello che vuole. Si è allineato subito. Giuro sui miei due dalmata che non ho minimamente cambiato idea. Si è un po' allineato, pragmatismo. Però... No, guardi, ma glielo giuro, ma davvero. L'ha sempre pensata così. L'ha sempre pensata così. Come sul matrimonio. Come su, scusi, sul matrimonio. Ma sulla cosa. Lei a favore ha fatto il PACS francese in Italia. Guardi, il PACS è acquetta rispetto a quello dal punto di vista dei diritti, è assolutamente, noi lo chiamiamo matrimonio per semplificare, ma il PACS francese è assolutamente Però lei è stato sempre contro, ci vuole dire che è sempre stato contro il matrimonio, questo è il punto. Io sono favorevolissimo in linea di principio, perché penso che non ci debbano essere allora è favorevole o contrario? Debba essere, sono favorevolissimo dal punto di vista di principio, perché penso che non ci e però poi essere. Siccome la politica italiana è fatta in un certo modo, penso che si possano trovare delle formule di mediazione che garantiscono comunque diritti anche importanti, anche rilevanti alle coppie omosessuali. Risolto questo punto. Ho pensato, il mio approccio con Matteo Renzi è sempre pragmatico, d'accordo, però adesso ho risolto questa questione. Però scusi, perché lei, signor Parenzo, a me una cosa mi dispiace. Il fatto che questi siti siano stati oscurati. Cioè, perché uno dovrebbe saltare la propria, tra l'altro è anche un danno economico oscurare dei siti. Danno economico, da quei siti la società di cui sono socio prende pochissimi soldi. In generale comunque, no, ma in generale qualcuno ci guadagnerà, no? Sì, certo, no, è un'attività economica. Parliamo, io credo non più di qualche migliaio di euro all'anno. Ma perché? Perché li ha oscurati? Tanto ormai qualcuno ha fatto delle fotografie, cioè sono già usciti. Sì, ma non c'è dubbio, per carità, ma... Perché io credo che, ma questo lo penso davvero, ma lo dicevo prima, io penso che ci sia un po' di sessuofobia in tutto questo. Ma chi è libero che l'attacca ogni giorno su questa cosa? Beh, come dire, libero sicuramente sta facendo un pezzo al giorno su questo argomento. Però lei, scusi, anche lei ha dato... Mi aspetterei che facesse un pezzo al giorno su altri argomenti. Ma vabbè, quello ognuno fa quello che vuole, per fortuna. Diciamola tutta, guarda, io voglio dire una cosa a De Giorgio, il mio amico, perché non è un amico, perché è quasi un fratello. Vabbè. Sì, no, voglio dire che voglio dire questo. È molto... la campagna diffamatoria che stanno facendo nei confronti di De Giorgi, e non dicono una parola, voglio dire anche il suo parere, sul fatto che Casini candida la mezza famiglia. Cioè, voglio dire, De Giorgi, ma sarà peggio? Lei fa un mestiere, l'imprenditore, ci sono un po' di... Uno non è che deve... Anche lui ha fatto delle stupidaggini, per esempio, quelle drag queen, prima non le conosceva, poi erano sue dipendenti, pure lei, insomma, ha avuto un po' di paura quando ha visto quelle foto lì, si è tirato un po' indietro, non è che ha detto sì, è vero, leccavo una tetta. Allora, sicuramente, l'ho scritto su Facebook, quell'intervista a Repubblica a me non è piaciuta, no? Cioè, perché, ha fatto un'intervista perché, che non le è piaciuta, si autocensura, scusi? Un conto è quando uno dice le cose al giornalista, un punto poi quando le vede sul giornale. C'è anche le foto che vanno contestualizzate, come si fa a dire che le foto vanno contestualizzate? Le foto sono quelle. Quelle foto andassero contestualizzate è evidente. Ma che contestualizzate? Nelle discoteche. Per carità, cioè, come dire, non è che... ho capito, ma che contestualizzare? Facevo il monaco buddista, che facevo appunto, allora non c'è bisogno di contestualizzare le foto, sono quelle. Lei leccava una tetta finta in una festa, non mi pare che vadano contestualizzate in nessun modo. Assolutamente, esatto. Ma io e poi non era carnevale, come dice lei. Non rinnego minimamente quello che è stato il mio lei lavoro. Lei ha detto che era carnevale, ma non era carnevale. Essere, se non sarò eletto, o tra due legislature, perché tanto io più di una legislatura, legislatura non intendo fare, quindi... Comunque, però lei ha detto pure che era carnevale, non era carnevale. Per cui non è che era una festa... No, per esempio lei era carnevale, perché era... Vabbè, ho capito, ma che c'entra? Comunque, guarda, Cruciani, basta comunque, questo moralismo. De Giorgi, però sicuramente che le Dimmi. Dica questa cosa chiara. Meglio leccare una tetta finta che candidare parenti in lista. Ecco, questo sicuramente mi pare una cosa che si può dire con serenità proprio. Io credo assolutamente che sia meglio leccare una tetta finta di una drag queen che, o avere una drag queen come amica che avere tanti amici impresentabili. Meglio le drag queen degli impresentabili in Parlamento. Ma assolutamente, per carità, però scusi, lei non è partito, è una persona che fa mi permette di dire bellissimi, di grande bellezza, ci vorrebbero pure in Parlamento una drag queen in Parlamento. Tra un mese a Sydney ci sarà il Mardi Gras, dove è pieno di drag queen ed è uno dei pezzi forti della cultura australiana, rivendicato con orgoglio anche perché lei non ci va? sono già andato. C'è già andato. Ma sono in campagna elettorale, quindi non ci potrò andare. Se no andrebbe tranquillamente alla festa delle drag queen. Ma benissimo per me. Il problema è che con Monti sono candidati dei pezzi forti del cattolicesimo, ha capito? Io questo, secondo me, non era una conoscenza di queste sue attività. Questo lo dico anche preoccupato, perché io sono sicuro che nei prossimi giorni qualcosa potrebbe succedere, ha capito? Io non lo credo, perché la nostra è una lista plurale nella quale ci stanno dentro pezzi diversi della società che la pensano in maniera anche diversa su questi argomenti. Però posso dire, scusate, ma voi state giustamente puntando su questo argomento perché è giuridicamente forte, ma su tutte le cose che ci accumulano nella scelta civica per Monti non ne voglio parlare, cioè l'economia, il diritto del lavoro, ma sì, vabbè, ma quello è chiaro, ma noi i problemi quotidiani delle persone, tutti lo fanno, ma tutte le trasmissioni fanno dalla mattina alla sera di queste cose, si figuri. Ma io vi comprendo perfettamente, ma lei uscirà da questa campagna elettorale velocissimamente da questo punto di vista per il fatto della sua, però la cosa interessante è un'altra. Lei non mi sembra partito col piede giusto, glielo dico, perché ha nascosto che c'era un'inchiesta penale. Io ripeto, non ne voglio parlare perché non mi interessa. Non ho nascosto minimamente che c'era un'inchiesta penale, cioè ai suoi danti causa, ai suoi danti causa. Lei con chi ha parlato per essere candidato? Con Andrea Romano? Sì, tra gli altri, sì, certo. Tra gli altri, lei è stato, tra virgolette, raccomandato da Irene Tinaglia, giusto? Segnalato. No, questo non è nemmeno vero, insomma. Perché Monti ha scelto lei per la sua lista? Questo perché voleva una personalità laica? Perché? Ma sicuramente voleva una personalità laica con delle idee precise, ma comunque moderate, diciamo. Per moderate? Possa essere moderate, perché non è che sia così tanto moderato. Cioè, moderate, non mi pare che lei sia moderato. Che possa essere moderato su questi temi, credo che invece l'abbia vissuto come una ricchezza. Non ho ancora parlato. Secondo me il contenuto di questi siti non li conosce, altrimenti ho dei dubbi sul fatto che lei sarebbe stato candidato, ma glielo dico anche con rammarico, perché ripeto, ci sono molti perbenisti in Italia. Appunto per quello che io parlavo di sessuofobia. Sì, però non ci riguarda. Non ci riguarda. No, le assicuro che non ci riguarda. Essere sponsor, amministratore, gestore, creatore di siti dove si incontrano le persone, fanno quello che vogliono, hanno la libertà sessuale la più sfrenata e vogliono soddisfare, secondo me è una cosa assolutamente normale, tipica delle civiltà occidentali. Se viene da persone adulte consenzienti, non c'è dubbio. Quella è normale, abbia pazienza, certo. Non c'è dubbio. Certo. Vabbè, De Giorgi, grazie. Che c'è? Che è successo? Grazie a voi. Romano e la Tinagli sapevano di questi siti? Di questi quattro siti non credo, sinceramente. Ma perché lei non l'ha detto? Era meglio dirlo, ma perché, no? Ma perché sono, come dire... Adesso è costretta a oscurarli. Io credo che la società di cui era amministratore ha una cinquantina, un centinaio di domini internet, piazzati lì per fare piccoli rivoli di traffico sulle altre attività, ecco. Ho capito, però bisogna, secondo me è meglio dire le cose, internet poi funziona così, se poi spuntano fuori. Lei avrà presentato un curriculum, non no. So quanti domini ha uno dei tanti gruppi editoriali presenti su internet, probabilmente ne avrà migliaia. Vabbè. E avrà anche rivoli che magari non, però insomma non credo che questo faccia la differenza, no? Beh, insomma, bisogna, secondo me, quando uno mi raccomando, come dicono a Milano, tenga duro. Grazie a voi della replica. Danzano come zanzare. Maurizio, provincia di Monza, buonasera. Sì, buonasera. Vada. Senta, io volevo solo semplicemente capire da voi che siete così bravi, ma come si può fare in Italia qualcosa per eliminare tutti questi partitelli? Ho sentito il notiziario, di Radio 24, 160 simboli, ammessi. C'è un problema, ma come anche... hanno fatto gli altri stati? Hanno fatto ad arrivare poi ad avere una destra, una sinistra? Liberali o... lo so, ha ragione, l'Italia è il paese dei particolarismi, eccetera. Poi molti verranno eliminati con la storia della raccolta delle firme, cioè bisogna raccogliere le firme, presentarsi, eccetera, eccetera. Cioè, non è che poi ci saranno... Ma per arrivare ad avere una destra e una sinistra, cosa bisogna fare? Noi piccoli popolo che va a votare, cosa possiamo fare in pratica per eliminare... Se lei vuole seguire il consiglio di Berlusconi, ma io lo dico, a me non me ne frega niente, in teoria bisognerebbe votare solo per i grandi partiti. In realtà sia Berlusconi che Veltroni nel 2008 ci avevano provato a fare fuori gli estremi, i piccoli partiti, tant'è che le elezioni del 2008 con la stessa legge elettorale erano molto più semplici dal punto di vista dal punto di vista della scheda elettorale, anche della composizione delle alleanze. Perché alla fine uno può fare tutte le leggi elettorali che vuole, però molto è nella volontà dei politici. Se i politici decidono di non allearsi con altre 540 liste, nella lista al Senato del PDL probabilmente ci saranno 14 liste, questo lo possono fare. Certo, se cercano le schede lenzuolo, alleandosi anche i più piccoli partitini per prendere lo 0,5, beh, quella è una scelta precisa. Per cui non è solo questione di legge elettorale, è anche una questione di cultura politica. Beh, questa l'ho detta grossa. Quando la zanzarina tormenta la mia noce. Però vi devo confessare una cosa: le strade in diretta saranno anche utili, ma sono una boiata pazzesca. Cioè, ammosciano proprio. Ammoscerebbero una tragedia di Sofocle, una commedia di Molière, proprio una cosa di una noia bestiale. Eliminatele. Fate qualcosa, vi prego. Strade in diretta. Vabbè. Beh, fu uno dei momenti direi epici della storia di Radio 24. Ogni tanto io me lo sogno la notte questo passaggio, perché poi viene da solo, cioè viene spontaneo, no? Dopo aver sentito le strade, magari uno sta raccontando una cosa, a un certo punto uno che dice tu le strade in diretta, c'è quello che dice, per carità, mica voglio dire nulla. Dopodiché è vero, ha ragione, dopodiché è la radio, no? Ascoltano soprattutto sì. In macchina, quindi è utile, sì, no, non è che ti fanno la ricetta di cucina, non è che ti interrompono per farti la ricetta di cucina. Beh, però, caro Parenzo, a questo punto dai tu un consiglio agli ascoltatori, il solito consiglio, diciamo a questo punto anche un po' rafforzato, perché insomma l'uomo l'ha detta grossa su di noi, ovviamente, no? Stiamo parlando sempre di Vittorio Sgarbi, come ovvio. Dai il solito consiglio per chi ha un bambino, non solo in macchina, anche accanto, in cucina, in stanza, sta allora, girando cari amici, care mamme oppure care nonne oppure care tate, ma anche inglesi, caro papà, cari papà, ma anche no, il papà sono ancora al lavoro. Care mamme, care nonne, care tate, cari papà che siete tornati a casa con le borse dello speso tutti affaticati, la vostra moglie comincia a urlare: non hai preso i pomodori? Bene, non arrossite, non arrabbiatevi, prendete il vostro adorato bambino e appoggiatelo subito sul fuoco. Accendete prima ovviamente il gas, lasciate che il gas esca e appoggiate il vostro bambino lì vicino. Vedrete che nel giro di pochi secondi si assopirà subito e comincerà a sognare. In quel momento voi potete alzare la radio a tutto volume e godervi questa nuova crucianata della zanzara di stasera. C'è quella testa di cazzo di Pietroni, io ho detto il mio pensiero e lui mi invia i messaggi. Quindi non capisco che una zucca vuota, una capra come Cruciani, se no, ma lui ridette, che perché dettare è diverso da scrivere, se non capisco. Che cazzo vuole questa zanzara molesta di merda, lui e quell'altro stronzo che gli sta a fianco, rotti in culo e cornuti. Però tutto questo, voglio dire, è una considerazione serena di un uomo che è felice di comunicare su Twitter quello che gli passa per la testa, e siccome comunico il mio pensiero e uno poi lo invia, non so come deve fare. Bello che è tutto questo una comunicazione serena. Ma ce l'aveva con noi, non l'ho mica capito. Perché io una volta su Twitter ho scritto una cosa sull'account di Sgarbi, che in realtà non lo gestisce lui. Sì, ovviamente è consapevole di quello che scrive il signor Pietroni. Prima o poi bisognerebbe invitarlo, l'alter ego di Sgarbi, il signor Pietroni. Ma lui si è arrabbiato. Ma no, ma non si è arrabbiato. Io ho scritto, non è lui che gestisce, non so chi gestisce la cosa. Allora, insomma, faceva polemica su questo. Ma senti l'impazzimento del dottore, professore, maestro Sgarbi, perché a un certo punto dice: io sono sempre con voi, sono nei vostri pensieri. Si rivolge a tutti in questo caso, non alla zanzara. Se io volessi sconfessare qualcuno, negherei di essere io. Invece confermo di essere anche quello che non sono. Cioè, io sono anche se non sono. E in quanto immenso sono anche nei luoghi dove potrei non essere. Quindi sono dentro di voi, sono della vostra più segreta anima, sono lì. Quando voi pensate qualcosa, io la sto pensando con voi. Per cui non mi sembra possibile dubitare della mia esistenza tutterica. Capre! Hai capito? Capre! Cesare da Milano, buonasera! Buonasera. Vada. Buonasera a tutti. Allora, io vi devo ringraziare. Perché? Perché fino a qualche giorno fa non sapevo chi votare. adesso, dopo che ho sentito il basta di Oscar Giannino, sì, so chi votare. Beh, mi dà una grande gioia, Cesare. Cioè, ho contribuito a portare un voto a Giannino con questa cosa? Sì, perché intanto, secondo me, ha ragione. Se poi mi dà un attimo di tempo, glielo spiego anche dopo cosa. Beh, adesso un attimo mi sembra. Però, comunque, lei dice che questo basta, basta, basta di Giannino. Sì, questo basta, sì, basta, basta. Sì. Un attimo, questo basta, basta, basta. Basta! Questo... Basta! No, basta! Ma, io questo basta, basta, basta mi ha dato. Beh, sì, lo capisco. Lo capisco che possa suscitare adrenalina, possa suscitare. Mi ha dato una gioia. Contro lo Stato ladro, ha capito? Sì, sì, sì, perché lei, Cruciani, sì, forse lei non lo sa, ma sì, non lo so. Non lo so, boh, se lei guadagna 100 euro, sì, quando fa la dichiarazione dei redditi, sì, ne paga circa 45 di tasse. Eh beh, questo lo so, certo. Ok, perfetto. Allora dice... Parenzo lo sa più di me, sì. Gli altri 65 sono per me. No, manco per il cavolo. Perché quando lei poi dopo va a comprare quello che le serve per vivere, ne paga 21% per l'IVA. Di IVA che viene perso. E dunque da 45 siamo a 66. Poi quando vabbè, non è che non si fa proprio così il calcolo, comunque vabbè. Beh, più o meno. Comunque io adesso non sto qui nei dettagli, ma io ho fatto un conto abbastanza preciso che quello che una persona onestamente guadagna deve pagare allo Stato circa il 73% del suo guadagno. E allora, e dunque basta. E dunque basta. Il mio basta. Lo dica. Posso lo dica. Dirlo? Certo. Posso? Vada. Basta! Mi ha dato una grande idea, però. Lo ripeta, Cesare. Forte, forte. Basta! Beh, mi ha dato una grande idea. Qualcuno riesce a superare il basta di Giannino contro l'eccessiva pressione fiscale, per usare una parola tenera. Qualcuno riesce a superare il basta di Giannino, detto in quel modo? Basta! Basta! Basta! Qualcuno riesce a superarlo, sì o no? Bene, sentire iniziative editoriali della Zanzara. Beh, adesso non esagerare, insomma. Iniziali, grazie a Cesare, devo dire. È venuto un'idea in più allora a questo punto. Quale potremmo sarebbe? Chiedere al direttore napoletano, direttore del Sole. Ma quello è napoletano, è il presidente della Repubblica, lo dici napoletano, esatto. Il direttore del Sole 24 ore, sì. Al direttore del Sole di fare un DVD in allegato con tutte queste voci di basta, basta. Ma ce n'è una sola. Dopo dici tu, basta. Una grande collection di basta. Ma ci sarà solo basta. Ci sarebbe solo basta. Ci sarebbe solo basta, basta, basta. Ho capito, però secondo me è una grande idea. Domani possiamo sentire il direttore, se per caso condivide questa mia cosa che già ho lanciato. Vabbè, a domani 18:30. Siamo sempre qui, Siamo sempre qui. Vivi e vegeti. Che cazzo vuole questa zanzara molesta di merda, lui e quell'altro stronzo che gli sta a fianco, rotti in culo e cornuti. Però tutto questo, voglio dire, è una considerazione serena. Non mi sembra possibile dubitare della mia esistenza twitterica. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, lo so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Basta! Radio 24. La passione si sente.